Let's stop for a moment and concentrate on Lorenzo's question to the receptionist. Scusi, c'è un bancomat qui vicino? This is a useful phrase when asking for directions. Per esempio, c'è una banca qui vicino? Is there a bank near here? C'è un supermercato qui vicino? Is there a supermarket near here? C'è un forno qui vicino? Is there a baker's near here? C'è un telefono qui vicino? Is there a telephone near here? C'è un ufficio postale qui vicino? Is there a post office near here? Incidentally, when referring to the post office, you can also say La posta. C'è la posta qui vicino? You could say Dov'è la posta? Where's the post office? Listen again and repeat. Dov'è la posta? Ed ora tocca a lei. Now it's your turn. In the pause, try asking if there's a supermarket. Un supermercato. Near here. C'è un supermercato qui vicino? Now ask, is there a telephone near here? C'è un telefono qui vicino? Is there a bank near here? C'è una banca qui vicino? Is there a post office near here? C'è un ufficio postale qui vicino? And finally, is there a baker's near here? C'è un forno qui vicino?